And now back to the story. When Sarah and Lorenzo arrive back at the hotel, they find the receptionist struggling to help Signora Renzi. Una cliente dell'albergo. A hotel guest who doesn't quite understand that the telephone number she's trying to call in Rome is not in use. Before that conversation, here's the new language. Come al solito, ascolti l'italiano, l'inglese, di nuovo l'italiano e ripeta. È inesistente. It's not in use. È inesistente. Sbagliato. Wrong. Sbagliato. Che. That. Which. Che. Ha richiesto. You've asked for. Ha richiesto. Selezionato. Dialed. Selezionato. Attenzione. Attention. Attenzione. E ora, come al solito, il dialogo. Alla reception con la signora Renzi. No, signora, il numero di Roma è inesistente. È sbagliato. Come? Sbagliato? Ma non è possibile. Guardi, ora faccio il numero che ha richiesto. Ascolti. Attenzione, il numero selezionato è inesistente. Il numero selezionato è inesistente. Il numero selezionato è inesistente.